Questa notte ho fatto un sogno strano, mi ricordo ogni dettaglio perfettamente. Avevo i Levi's 501 e lo zaino Invicta sulle spalle come sempre. E poi andavo verso l'ultimo banco, prendevo il mio posto, quello accanto alla finestra dove c'eri tu. E non contava niente di più e mi ero quasi dimenticato di te e quella sensazione di quell'albero là fuori che come me non sapeva parlare. Maledetta timidezza, ti avrei voluto dire. A scuola ci vado solo per te e neanche ho studiato strano, bello da morire. Avevo solo 15 anni e neanche uno dei problemi che credevo di avere, tranne quella timidezza che non mi lasciava mai nemmeno respirare. Quando c'eri tu, io non volevo niente di più. E poi a pensarci bene, che bella sensazione. A scuola ci vado solo per te e neanche ho studiato matematica. A scuola ci vado solo per te e neanche ho studiato. Stanotte ho fatto un sogno strano, bello, bello.